Questa era American Lessons di Vegetable G, che abbiamo già anticipato la scorsa settimana per parlare di Calvino, insomma, perché questo centenario, ecco, importantissimo, e c'è questa mostra itinerante in giro per il 15° municipio, e questa settimana andremo a scoprire un altro pezzettino che è una parte che riguarda il giardiniere, no? Il botanico, lo scrittore Liberato Guglielmi, ma non direttamente con Italo Calvino, ma con il Babbo, e ne parliamo con Marco Veruggio di Punto Critico, che fa parte tra le associazioni che porta questa mostra. Benvenuto a Driving Saturday. Grazie, ciao Clara. E questa mostra quindi racchiude moltissimi disegni, moltissime immagini, acquerelle originali, che proviene proprio dalla collezione privata, quindi è anche un onore averla. Sì, e sono di un personaggio, Liberato Guglielmi, che oltre che essere una figura forse poco nota, diciamo uno di quelli che di solito vengono considerati personaggi secondari, ma che forse proprio per questo ci rivelano di più di alcuni periodi storici, ha giocato un ruolo nella vita di Italo Calvino, perché è stato giovanissimo apprendista presso la stazione di acclimatamento di piante subtropicali gestita, diretta da Mario Calvino a Sanremo negli anni 30-40, ed è stato anche una figura ispiratrice di un racconto che si intitola Un pomeriggio ad Amo e che apre la raccolta Ultimo viene il corvo, e poi ispiratore della figura del barone rampante. E anche in qualche modo un elemento, diciamo, di influenza insieme ai genitori anche di quella che sarà poi la parabola politica di Italo Calvino. Ricordiamo che questa mostra itinerante è organizzata sì dal 15° municipio, ma in collaborazione con la Biblioteca di Roma, l'Associazione Rinoceronte, l'Associazione CRT Scena Madre, e naturalmente Punto Critico, l'AMPI, e Marti della Storta, Officina Pasolini, Teatro all'Ascolto. L'ho detti tutti perché è importante partecipare a questa mostra secondo noi, e soprattutto importante andare a conoscere questa figura di questo scrittore paroliere, insomma, che è stato importante per la nostra cultura. E portate 26 disegni che sono originali. Sì, 26 disegni, acquarelli originali in questa mostra che verrà inaugurata giovedì prossimo, il 26 ottobre alle 16, nello spazio di Torretta Valla di Equela, che sovrasta, diciamo, l'ingresso di Ponte Milvio, e a cui sarà presente, tra l'altro, ci abbiamo avuto la conferma oggi, questo ci fa molto piacere, la figlia di Liberato Guglielmi, Tania, che verrà, diciamo, appositamente come è venuta all'inaugurazione della rassegna Calvino itinerante, e un attore ligure, quindi un altro pezzo di Liguria, Aldo Vinci, che leggerà proprio durante l'inaugurazione il racconto Un pomeriggio ad Amo, che ci descrive appunto questo ragazzino molto selvatico che lavora presso la casa, diciamo, e il giardino botanico di Mario Calvino. E tutto questo, hai detto bene, dentro una rassegna importante, perché è iniziata il 6 ottobre e andava avanti fino al 22 dicembre, curata da Tatiana Marchisi, assessora del 15° municipio, Andrea Pergolari, che è anche il direttore del teatro Le Serie, dove tra l'altro nello stesso questo prossimo fine settimana ci sarà uno spettacolo che tratta un altro aspetto interessante, inedito della vita di Calvino, cioè la relazione d'amore con Elsa De Giorgi, e dove ci saranno anche una serie di altri spettacoli, tra cui ad esempio l'8 dicembre uno spettacolo che è un po' una chicca, perché è, diciamo, dedicato alle canzoni di Calvino, perché Italo Calvino compose anche 8 canzoni ispirandosi un po' alla canzone popolare di Bertolt Brecht, e quindi insomma in questa rassegna in cui ci sono verranno trattati il cinema di Calvino, il teatro di Calvino, il pensiero scientifico di Calvino, ci saranno convegni, spettacoli, laboratori, e che coprirà, diciamo, un po' tutto il territorio del 15° municipio. C'è la possibilità anche di avvicinarsi ad alcuni aspetti che sono che sono meno conosciuti, ecco, di cui si sente parlare meno anche, diciamo, in questo centenario della nascita di Calvino. Viverlo a 360 gradi, dal rapporto con la politica a quello della scienza, insomma, e l'appuntamento quindi non rimane che seguire questa mostra itinerante per tutto il quindicesimo municipio, che tra l'altro passeremo tra poco dove vola l'avvoltoio, perché le parole sono di Calvino. Quella è una delle canzoni che è stata fatta dal Cantacronache, appunto, di Torino, e poi sì, abbiamo anche Oltre il Ponte di Modena, si dirà Embers, l'hanno rimusicata, insomma, esatto. un poeta, uno scrittore da conoscere, da riconoscere, da vivere tutto quanto, diciamo, nel quindicesimo municipio, augurandoci che tutta la città poi sposi questo centenario e queste iniziative di questo. Grazie, ci vediamo quindi il 26 ottobre dalle 16 alla Torretta Valadier. Poi voglio ricordare gli orari: la mostra prosegue venerdì 27 e sabato 28 dalle 14 alle 18, domenica 29 ottobre dalle 10 alle 14, e poi il fine settimana successivo di nuovo il sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 14. Allora, ci rivediamo alla Torretta Valadier assolutamente da giovedì in poi. Intanto buon allestimento. Grazie mille, grazie a tutti, vi aspettiamo, ciao Clara. E questa è Dove vola l'avvoltoio, appunto, il testo di Italo Calvino, ma la musica di Yo-Yo Mundi. Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra, il cupo cannone si tacque e più non sparò, e privo del tristo suo cibo, dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Nella limpida corrente, ora scende un carpetrone, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinare. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal bosco ed il bosco disse no. Avvoltoio vola via, tra le foglie in mezzo ai rami passano sol raggi di sole, gli scoiattoli e le rane, non più i colpi dei fucili. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disse no. Avvoltoio vola via, non vogliamo mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane e case in terra altrui, non vogliamo più rubare. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Avvoltoio andò alla madre e la madre disse no. Avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzare. Dove vola l'avvoltoio?